porque trato yo también. Cuando tú me hablas como a un cabrón, tan a mía, corazón está sufriendo, tan a mía, por favor. ¿Por qué trato yo también? Cuando tú me hablas como a un cabrón, me estás dando. E allora, buongiorno a tutti e tutte. Oggi è l'ultimo giorno del mese. Siamo a 29 febbraio, anche tra l'altro un numero un giorno del mese che capita ogni 4 anni, il 29 febbraio. Normalmente febbraio ne è a 28 e quindi siamo ancora in febbraio. E sono le 15.08, domani sarà il primo marzo, quindi diciamo inizia l'aria primaverile, quindi buona primavera a tutti e tutti. La primavera, si dice, porta a innovazioni e noi auguriamo che l'innovazione, per chi ci ascolta dalle carceri oppure comunque privato o privata della propria libertà, anche agli arresti domiciliari, in detenzione domiciliare, con le firme, qualunque modo di limitazione della libertà, possa nella primavera prossima, appunto, possa trovare la propria liberazione. Negli giorni scorsi abbiamo parlato abbastanza a fondo, o perlomeno diciamo, ci abbiamo provato, speriamo che di aver dato un quadro esauriente del pacchetto cosiddetto, un termine quanto mai infelice, svuota carceri, perché non svuoterà un bel niente. Abbiamo detto che intanto questo pacchetto ha dei punti negativi addirittura su alcuni aspetti, per esempio quello che sostituisce l'arresto per coloro arrestati in flagranza di reato e quindi in attesa del processo per direttissima, quindi i primi 2-3 giorni di carcerazione, invece che in carcere rimanere nelle celle di sicurezza dei commissariati, delle questure o delle caserme dei carabinieri. Abbiamo detto che questa cosa è estremamente negativa ci sono i fatti che la comprovano, perché ancora una volta, per esempio, problemi, chiamiamoli problemi, cioè violenze nei confronti di chi viene tenuto nelle celle di sicurezza. Da Firenze sono avvenuti in pochissimo tempo 2 morti nelle camere di sicurezza delle questure. E dunque, così La questione ha preoccupato un po' tutti. Nei primi due mesi del 2012 a Firenze, quindi il comunicato è abbastanza, dice a 226 anni dall'abolizione della pena capitale, si sono registrati 4 morti. Ora, poiché si parla di Firenze, c'è questo dato. Non è un dato che riguarda l'Italia, perché tutti sappiamo che fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ancora in periodo fascista, c'era la pena di morte. Il problema è perché Firenze, questo dà lustro alla storia di quella città, è stata la prima, quando Firenze non era ancora ovviamente nell'Italia, quando Firenze era diciamo amministrata dai Medici, una struttura di governo ritenuta tra le più culturalmente importante, anche dalle più aperte per quel periodo, fu il primo regime, diciamo perlomeno del mondo, che abolì la pena di morte. La Firenze dei Medici abolì la pena di morte esattamente 226 anni fa. Quindi è un fiore all'occhiello. Tuttavia, dicono qui, nonostante sia stato il primo paese al mondo, non come Italia, ma come Toscana, quindi come Firenze, il primo paese al mondo che ha abolito la pena di morte, tuttavia nei primi due mesi del 2012, quindi dopo 226 anni, torna la pena di morte. 4 morti, 2 a Solicciano, 2 nelle celle della questura. Una denuncia quindi abbastanza grave. Si legge in una nota, la denuncia l'hanno fatta un'associazione, poi l'hanno fatta un'associazione di persone per i diritti dei detenuti, che poi è stata letta da una consigliera del comune di Firenze, appunto, no? Ornella De Zordo, che ha letto questa grave accusa e ha richiamato un fiore all'occhiello che teneva Firenze rispetto a tutto il mondo, di prima città che ha abolito la pena di morte, al fatto che attualmente in due mesi ne ha eseguite 4 di condanne a morte. Tra l'altro nemmeno dopo una sentenza, ma così in maniera abbastanza sbrigativa. 4 morti, 2 a Solicciano, che è il carcere di Firenze, e 2 nelle questure. E l'ultimo è proprio questa nota del 27 febbraio, quindi di 2 giorni fa. L'ultima è avvenuta il 26 febbraio. E dunque, al di là dell'accertamento di eventuali responsabilità, a diretto o indiretto, è del tutto evidente che la situazione è ormai insostenibile. Occorre uno sforzo straordinario, un cambiamento radicale, a partire dall'abrogazione delle norme. Di alcune norme che appunto fanno arrestare delle persone in realtà che non hanno commesso dei reati, perché qui queste persone morte erano prevalentemente immigrati che avevano il solo difetto di essere immigrati senza permesso di soggiorno, quindi non è che avevano compiuto un qualcosa, ma erano qualcosa ritenuto non compatibile, non accettabile o leggermente diverso, per esempio da noi che abbiamo in questa saccoccia una carta d'identità, e quindi addirittura per pena di morte, per nemmeno per un reato, ma semplicemente per essere leggermente diversi. L'altro elemento che giustamente viene portato come produttore di queste pene di morte un po' così allegre è la legge Cirielli della recidiva. Legge Cirielli, che tra l'altro è una classica legge tra le più odiose, ma nemmeno si può definire fascista, perché ancora di più, cioè molto peggio di una legge fascista, perché le leggi fasciste sono leggi restrittive, punitive, liberticide, quello che volete. Questa qui, la Cirielli, invece è molto di più, perché per metà è liberticida, cioè toglie forcaiola, aggrava, cioè, per altri versi è invece facilita la libertà. La Cirielli è stata la classica legge del dominio totale, assoluto e incontrastato del barone, quindi una cosa come avveniva, che so, nel Medioevo, forse in alcuni periodi scuri, ma forse nemmeno tutto il Medioevo, in alcuni periodi scuri che alcuni, un po' tutte le realtà, centinaia e centinaia di anni fa hanno vissuto, cioè quando il barone o il signorotto diceva faccio come mi pare, quindi faccio uscire gli amici miei signorotti, qualunque reato abbiano fatto, e invece punisco quelli che rubano una mela o una balla di fieno. Esattamente è questa la Cirielli. La Cirielli è questa legge qua, cioè ha accorciato la prescrizione, cioè la possibilità di annullare i reati, e avete visto il nostro ex presidente del Consiglio ne è subito giovato, l'ha accorciata molto, per cui basta avere un buon avvocato che allunga i termini del processo, si esce senza aver subito processo, senza possibilità di essere nemmeno condannati in primo grado. Quindi per chi ha soldi viene diciamo, amnistiato. Infatti ci dice che sono circa 500 le prescrizioni, cioè le imputazioni che vanno a finire nel nulla perché passa il tempo della prescrizione, che è stato appunto accorciato per chi ha soldi, perché ci vuole una buona schiera di avvocati per far allungare i tempi in modo che scatti la prescrizione. Per altro verso, la stessa ex legge Cirielli, invece, sulla recidiva, cioè per coloro che fanno piccoli reati, se prevalentemente contro il patrimonio, quindi esattamente contro un settore sociale, se la prende, contro quel settore di classe che è costretto a rubare o comunque a fare furti, ad aggredire il patrimonio altrui perché non ha di che storia, per queste, per la recidiva, chi compie entro 5 anni più volte lo stesso reato, 2 volte basta, a quel punto gli vengono bloccate tutte le concessioni dei benefici e anche quelle, diciamo, le misure alternative durante l'espiazione. Quindi allunga la pena per i poveracci, la annulla totalmente per i signori. Quindi una legge delle più, e nessun governo, nemmeno quello di sinistra, men che meno questo, quello di sinistra si fa per dire, quello che è durato poco, quello Prodi che è durato pochissimo, però aveva tutto il tempo di abrogare la Cirielli, ha avuto il coraggio di abrogare questa legge. Noi abbiamo in Italia il codice Rocco ancora, il codice penale Rocco, che è il codice fascista fatto nel 1931, che ha in fondo pagina la firma del signor Benito Mussolini, quindi alla faccia di un paese che si definisce antifascista e democratico, e non lo è affatto. Basta sentire le dichiarazioni, per esempio, del signor Caselli, sono esattamente quelle che poteva tenere un pubblico ministero del regime fascista, oppure quelle del signor Manganelli, capo della polizia, sono la stessa terminologia, le stesse parole, gli stessi concetti, la stessa cultura che avevano i capi della polizia, i dirigenti dell'ordine pubblico durante il periodo fascista. Quindi ha come cultura, come codice penale, la stessa struttura fascista, e per di più ci si è messa questa legge che è ancora di più fascista, un fascista al quadrato possiamo dire, cioè la legge Cirielli. Questo per dire che questo paese ormai non ha più nulla di quel, diciamo, inoltraggio a chi ha fatto la resistenza, chi è morto per cercare una via di libertà. Questo paese non ha più nulla di quel retaggio della resistenza, della lotta partigiana. Questo quindi i due fatti che imputa che a Firenze sono morte queste uccise 4 persone. E qui ci sono i nomi. Allora, Ahmed è quel Ahmed Youssef Sauri, 27 anni, si è ucciso in una delle celle di sicurezza della questura. Anche questa uccisione è quella che da subito abbiamo detto, conoscendo un po' la struttura dei carceri, di come operano anche i detenuti, non è un suicidio, perché non ci sono finestre nelle celle della questura, quindi non si poteva appiccare alla famosa finestra, ma ha fatto alla griglia della porta, che non è più alta di 2 metri. Ora ditemi voi come fa una persona alta 1,80 m a impiccarsi a qualcosa che è alto non più di 2 metri. È difficile, non è possibile, è impossibile materialmente, e su questo non si sa ancora come. Questo è il primo morto, poi vabbè, anche qui poi il 118 è arrivato in ritardo, eccetera eccetera. Su questo i compagni di Firenze si stanno attivando per cercare di capire, di sollevare un'inchiesta che è stata subito messa sotto il tappeto, poi l'hanno ritirata fuori grazie alle mobilitazioni, un po' è tornata sotto il tappeto, insomma queste sono, e comunque Firenze, da questo fiore all'occhiello di essere il primo paese al mondo che aveva abolito la pena di morte 226 anni fa, adesso nel 2012 è diventato uno dei peggiori paesi al mondo, perché in 2 mesi ha ucciso 4 persone, tra l'altro per, diciamo, 2 perché semplicemente non avevano le carte in regola, le carte di soggiorno, e 2 perché erano reati contro il patrimonio, quindi uccidere per un furto è proprio da criminali, e parliamo ovviamente dello Stato. Ma questo è il punto che distrugge quelle stupidaggini che questo governo, diciamo stupidaggini per non dire di peggio, noi pensiamo che siano dovute a incompetenza, incapacità di questo governo, ma che non sa che cosa sono le questure, le caserme dei carabinieri, e con cui ha prodotto questa stupidaggine. La seconda è quella della chiusura degli OPG, ne abbiamo parlato, che rischia di diventare non una chiusura, che pure è quanto mai effettiva, dei manicomi criminali, che sono dei veri lager di Stato, da fare invidia ai lager anche questo del regime nazista, perché lì si tortura tutti i giorni, 24 ore al giorno, sono cose allucinanti, ma se ne vogliono, non si è detto li chiudiamo e vediamo di gestire queste persone in maniera di tutto libera, semplicemente come appunto in libertà, cioè possono seguire terapie mediche, ma essendo rimanendo liberi, poi appunto terapie mediche, ma anche terapie di carattere psicologico, con contatti, colloqui, eccetera, ma rimanendo liberi. No, si vuole portare, come avevamo detto l'altra volta, riprodurre sul territorio a livello regionale dei micro manicomi criminali. Vedremo che verrà fuori la legge, questo decreto del governo non lo specifica, però sembra che ci sia, cioè dice che comunque dovranno essere delle camere di gestione sanitaria, e va bene, che però devono avere un sistema di controllo esterno, quindi comunque le guardie ci stanno, casomai non a contatto col paziente ma all'esterno, quindi dei piccoli manicomi criminali. Su questo vi vogliamo leggere, noi abbiamo già detto quello che pensiamo. E per fortuna però ci sono venute persone di grande levatura, perlomeno in Italia quelli che hanno un po' più la levatura rispetto alla media, quindi intellettuali, che per fortuna si sono gettati con ferocia contro questa volgarità del governo. Adesso vi leggeremo un articolo di Pieraldo Rovatti, un filosofo, una persona molto attenta a quello che succede nel mondo, anche di una certa età, che dice la sua su questo argomento. A tra qualche secondo, dopo un po' di musica. Allora, 15:23, prima di leggere l'intervento di Pieraldo Rovatti sul manicomio criminale, vero addio, punto di domanda, questo è il titolo del suo articolo di qualche giorno fa, avvertiamo coloro che ci ascoltano che per i fatti della Val di Susa, di cui credo che tutti coloro che ascoltano questa radio siano ben informati, noi siamo in collegamento con Radio Blackout di Torino, che segue le vicende momento per momento, e quindi può succedere che se sentiamo che c'è qualcosa di importante, perché loro seguono le mobilitazioni ormai sono permanenti 24 ore al giorno, tutti i giorni, dopo le aggressioni subite, violenze orribili da parte di questo cosiddetto ordine pubblico, ordine del profitto, del guadagno contro le persone, contro l'ambiente, contro tutto, insomma, se sapremo qualcosa interromperemo ovviamente le trasmissioni per darvi letture, per darvi appunto queste notizie, per mandare in diretta Radio Blackout, che segue le vicende della Notav. Dicevamo, Pieraldo Rovatti, persona di certa levatura, lui è filosofo e si occupa anche di problemi sociologici, eccetera, affronta il problema del manicomio criminale. Vero addio, si domanda. Riassumo i fatti. Il decreto legge chiamato svuota carceri, approvato definitivamente dalla Camera martedì scorso, contiene un emendamento che sancisce la chiusura dei 6 manicomi criminali, detti OPG, ospedali psichiatrici giudiziari, ancora esistenti in Italia, e l'istituzione di un numero da precisare di strutture regionali di dimensioni ridotte a esclusiva gestione sanitaria. Tra virgolette, scusate, gestione sanitaria, perché è il termine che viene detto su questo decreto. Il provvedimento dovrebbe andare a norma entro il 31 marzo 2013 e si lasciano poche settimane da qui alla fine del mese prossimo, quindi dalla fine marzo dovrebbero precisare i dettagli di come dovranno essere questi micro OPG in ogni regione, per precisare entità e caratteristiche delle nuove strutture. Si sa comunque che esse prevedono un'attività perimetrale di sicurezza e vigilanza esterna, quindi avranno le guardie all'esterno. In altre parole, che saranno delle strutture chiuse. Ricordo anche che nella nostra regione non esiste alcun OPG, e non per caso. E anticipo che non c'è a oggi alcuna intenzione di chiedere che sul territorio regionale venga fatta nascere una delle strutture alternative previste dal decreto. Questa cosa l'ha scritta sul Messaggero Veneto, quindi si riferisce al Veneto come regione dove non c'è, e dice che appunto non c'è e vorrebbero che non ci venisse instaurata qualcosa che hanno voluto non c'è. Lui perché infatti ricorda che quello è il terreno dove ha operato la legge Basaglia, ha operato proprio Basaglia, Franco Basaglia. Cosa è successo, si domanda Rovatti, e perché dopo così tanti anni dalla legge Basaglia del 1978 il bubone è scoppiato? E soprattutto, come spiegare che mentre molti plaudono alla fine della barbarie dei manicomi criminali, da Trieste si è subito partito un forte allarme in cui in sintesi si avverte che, virgolette, sta tornando la cultura del manicomio che pensavamo di aver sconfitto e sotterrato. Lui tra l'altro si fa portatore, non solo queste cose le dice lui perché ci crede, ma si fa portatore di tutto quegli operatori, quelli che appunto in parte hanno lavorato con Basaglia, in parte sono i suoi successori, sono tutto quel movimento, perché il movimento, cioè la chiusura dei manicomi, fu un vero e proprio movimento, non a caso poteva avvenire in Italia soltanto negli anni 70, gli anni della speranza, del grande conflitto, della violenza creativa, che ha portato appunto alla chiusura dei manicomi. In periodi di piombo come questi, plumbei, probabilmente non solo non sarebbe possibile chiuderli, perché non c'è quell'effervescenza, quella dinamica, quella creatività in grado di distrugge, ma addirittura lui nota però si fa portatore di tutta la preoccupazione del mondo degli operatori del terreno, diciamo, delle persone cosiddette che hanno dei problemi psichici, che della preoccupazione che sta tornando la cultura del manicomio che pensavamo di aver sconfitto e sotterrato. In pochi mesi, continua Rovatti, grazie al lavoro di una commissione parlamentare d'inchiesta guidata da Ignazio Marino, si è scoperchiata la nefandezza degli OPG, ricordate col video famoso che abbiamo visto tutti, eccetera, ben nota agli addetti della salute mentale. Tra l'altro il video è ancora visibile, e se lo volete vedere nelle trasmissioni c'è un link che porta a queste cose, comunque lo rimetteremo nella trasmissione di oggi se non l'avete visto, così lo potete cliccare e rivedervi quel video girato a seguito della Commissione Marino per vedere le nefandezze di quella cosa. Questa nefandezza erano ben nota agli addetti alla salute mentale, che non era mai diventata davvero di pubblico dominio. Livelli poco immaginabili di incuria e di abbandono, completa fatiscenza, contenzione prolungata e violenza psicofisica di ogni genere. Incertezza della pena, molto spesso sine die, cioè senza fine, e a configurare veri e propri ergastoli bianchi, assenza di reali cure, inquietante moltiplicazione di decessi, eccetera, eccetera. Poi dice lo stesso Napolitano, ovviamente dopo aver visionato quel cosa, anche lui ha detto che andava a chiuso, e va bene. E poi dice a quel punto si è deciso di chiudere. Troppa fretta, forse occorreva procedere con maggior cautela. Come funzioneranno simili strutture alternative? È lecito temere che esse non sorgeranno proprio dal nulla, e c'è già chi bussa alla porta, ma soprattutto è abbastanza evidente che se creandole si introdurranno elementi di umanizzazione o semplicemente di medicalizzazione, parola importante, medica, tuttavia si lascerà intatto il grosso del problema costituito dallo stigma della pericolosità sociale. Questo è il punto centrale. Le persone che stavano negli OPG, che abbiamo visto in quei video raccapriccianti, non uscivano lì semplicemente perché non c'era un medico che dicesse che questa persona non è socialmente pericolosa, perché le persone vengono trattenute non perché hanno fatto qualcosa dentro gli OPG, dentro i manicomi criminali, ma semplicemente perché si ritiene che siano pericolose socialmente. E allora ci vuole un medico, un'equipe di medici che firmi con lo proprio, quindi si assuma la responsabilità di dire che Tizio non è più socialmente pericoloso. A quel punto viene dimesso dall'OPG. Ora, qual è quel medico? Ci vogliono solo medici coraggiosi per assumersi questa responsabilità, perché se poi quello che esce succede che da una capocciata al muro, da una capocciata a qualcuno, o rompe e mette in una vetrina, dico per dire una qualunque cavolata, è chiaro che si trova subito il giornalista di regime che dice: eccoli qua, tutti fuori. Tant'è vero che alcuni giornali, per esempio Libero e la Padania, quando c'è stato questo provvedimento del governo, quello svuota carcere, ha detto: il governo libera i pazzi e gli immigrati. Poi non credo l'ho letto, libera i pazzi e gli immigrati, attenzione, così. Questa è la Padania, questa è la cultura becera, squallida, ma peggio che fascista, perché a questi livelli i fascisti non ci sono mai arrivati, e diciamo la verità, siamo molto peggio. Vabbè, la pericolosità sociale, appunto, questo stigma sancito dagli articoli 88 e 89 del famigerato codice Rocco di epoca fascista, che è ancora in vigore, perché questa è una repubblica che ancora ha molti aspetti, appunto, del fascismo, permette di collegare strettamente la pericolosità alla malattia mentale. In breve, una volta che qualcuno viene dichiarato folle, egli è anche stigmatizzato come un violento e dunque un potenziale criminale. Il reo folle, tra virgolette reo folle, come si usa dire, va custodito non solo per i reati commessi, ma anche per i reati che, in quanto folle e perciò socialmente pericoloso, potrebbe e potrà commettere. Dunque, fino a quando non si slega questo barbarico abbraccio che sta alla sua base, il bubone resta. A parte ogni altra lecita e utile considerazione, si capisce bene solo da quanto ho accennato che c'è un abisso tra la cultura promossa da Basaglia con la sua 180, perlomeno con la battaglia, che poi la 180 ha pure in parte peggiorato, aggiungiamo noi, comunque, e questa cultura medica delle strutture sorvegliate. Basaglia voleva che anche il folle acquisisse i diritti del cittadino, mentre qui si potrebbe promuovere una versione soft del manicomio, un manicomio diffuso nel territorio. La definizione che avevamo dato noi prima che Rovatti, appunto, gli operatori di Trieste dicessero questa cosa, quindi, come vedete, non abbiamo forse, non siamo andati manco troppo oltre. Quindi un manicomio diffuso nel territorio in un nuovo connubio tra potere medico e potere di custodia, magari restituendo agli psichiatri quel mandato di sorveglianza sociale che sembrava andato in frantumi. Se è vero che potremmo lasciarci alle spalle l'orrore dei manicomi criminali così come li conoscevamo, adesso però inizia un percorso tutto in salita e sicuramente una stagione di lotte, se non altro per impedire che realtà che si credevano acquisite vengano confiscate all'insegna di un ambiguo medicalizzazione. Ed è facile prevedere che Trieste, con la sua storia paradigmatica, perché a Trieste è operato prevalentemente Basaglia, da lì è partita la grande battaglia, no? Della liberazione dei manicomi, con la sua storia paradigmatica avrà un peso preponderante in tale risalita. D'altronde nessuno si era davvero illuso sulla stagione culturale che stiamo vivendo. Mi viene in mente una felice immagine proprio di Franco Basaglia. Attenzione, aveva detto, che se la nave del manicomio affonda grazie ai nostri sforzi, 2 decenni di battaglie, non abbiamo molto tempo per i festeggiamenti, perché altre navi sono solo all'apparenza meno minacciose, già si individuano all'orizzonte. Shake, seal the contract. From the contract, there's no turning back. The turning point of a career, in Korea, being insincere. The holiday was fun fact. The contract still intact. Tanti gli interventi, ne abbiamo selezionati alcuni, ma veramente all'interno del persone più serie, degli operatori di questo settore della salute mentale, è chiaro che la preoccupazione è molto, perché non si, è un decreto raffazzonato, non si può dire con quattro righe, sì, dicendo che entro marzo bisognava precisare questa, ma con questo quadro parlamentare abietto a dir poco, perché le persone che siano in Parlamento al 99% sono ultra reazionarie. Non è che la diciamo noi, queste sono le parole di Rovatti e di tutti gli operatori di Trieste, che appunto insomma è rischioso comunque. E difatti qui abbiamo gli operatori di Reggio Emilia. Un no al decreto Monti. A lanciare l'allarme l'associazione cittadina Stop OPG, perché questa battaglia è iniziata molto tempo prima, che e difatti la battaglia per chiudere gli OPG è ovviamente vecchissima, è iniziata, si può dire, quando hanno, con la legge 180, quando si chiusero i manicomi, ma rimasero i manicomi criminali. Poi vabbè, le vicende degli anni 80 è finito più o meno tutto, poi negli anni 90 uguale, man mano questa battaglia è tornata, e questi hanno spinto poi la commissione Marino ad andare a visitarli con un operatore cinematografico, l'OPG, per far vedere a tutto il paese, a tutta l'Italia, che vergogna che ci avevamo, e quindi da lì è scattato poi il problema. Quindi l'associazione di Reggio Emilia Stop OPG, che l'allarme è lanciato dall'associazione Stop OPG di Reggio Emilia, che arriva a parlare di paradosso. Per i mini ospedali psichiatrici giudiziari occorre la presa in carico da parte dell'ASL, dibattito aperto in regione, hanno lanciato un dibattito, vogliono che in consiglio regionale si discuta. Il decreto svuota carcere, dicono così, il decreto svuota carcere del governo Monti rischia di peggiorare ancora più la situazione degli OPG, ospedali psichiatrici giudiziari. Hanno chiesto di essere ascoltati dalla Commissione Sanità della Regione. L'associazione è preoccupata soprattutto dal possibile effetto paradosso del decreto, lo chiamano così. Se dalla chiusura dei 6 attuali OPG, cosiddetti, cioè in Italia, si passasse alla creazione di strutture regionali, i cosiddetti mini OPG, senza l'attivazione di percorsi di presa in carico da parte dell'azienda sanitaria locale. L'associazione, infatti, oltre a segnalare l'urgenza di una legge che abolisca gli articoli del codice penale sull'imputabilità del malato di mente autore di un reato, e quei discorsi, quegli articoli del codice Rocco che segnalava pure Rovatti, ha predisposto al governo e alla conferenza delle regioni di dare subito i finanziamenti previsti dalla legge sul carcere. Si tratta di 38 milioni di euro per il 2012 e 55 per il 2013, che servirebbero a finanziare i progetti di terapia riabilitativa individuale a favore degli internati negli OPG. Cioè loro vorrebbero che le persone dismesse dagli OPG tornassero ciascuno nella propria residenza, e poi l'attività si facesse un'attività di riabilitativa individuale, a domicilio, caso per caso, non più con reclusione appoggiata. Grazie a queste risorse i dipartimenti di salute mentale dell'ASL possono prendere in carico i soggetti da dimettere, stabilendo criteri, vincoli e tempistiche di concerto con le regioni. A questo scopo l'associazione reggiana di Reggio Emilia ha avviato una campagna Un volto un nome, per sostenere la chiusura degli OPG e la presa in carico da parte delle regioni. Cioè, dice, qui non parliamo di malati mentali, qui ognuno è una persona, è un essere umano. Consideriamo che c'è nome e cognome, noi vogliamo sapere che ci viene affidato non 25 malati di mente, che è una categoria ultrafascista, proprio questa categoria la usano proprio. È miserabile non considerare che ci sono delle persone, ciascuna delle quali, ciascuna persona ha dei problemi e deve avere un trattamento individuale, deve avere casomai e deve essere seguita particolarmente, rispettando le sue particolarità, la sua storia, la sua dimensione, il suo sistema di interessi, di bisogni e di esigenze. Questo fatto invece di vedere a greggi, no? Si va appeso, vi do 25 malati di mente, chi è? Buttali là. Cioè, questi fa proprio veramente, questo è un concetto ultrafascista che guida la gran parte della cultura che guida questo paese, in tutti i settori, è allucinante. Vabbè, questa è la prima cosa. Anche da Castiglione delle Stiviere gli operatori emettono molta preoccupazione, insomma le preoccupazioni sono tante e molte, e chiaramente e le regioni, avendo il consiglio, come si chiama, di tutte le regioni che dovrebbero prendere in carico questi mini OPG, sollecitati dagli operatori che lavorano nel settore e Ed anche probabilmente, anche sicuramente, perché vogliono i soldi per fare queste cose, sia perché ci vogliono comunque i soldi per fare un trattamento personalizzato, senza più no, usare il concetto di branco, da buttarli casomai in mini, comunque in mini strutture reclusori sempre, e perché quindi ci vogliono i soldi e quindi per, vogliono vedere i criteri che il governo, quindi sì, ha chiesto, il Consiglio delle Regioni ha chiesto un confronto col governo sul decreto che appunto che dovrà essere messo in luce. C'è un mese, quindi pochissimo il tempo. Il decreto dice un mese, entro marzo, vanno, fine marzo, vanno definiti i criteri di questi mini OPG, questi mini manicomi criminali che dovranno sorgere in ogni regione. Quindi ce ne avremo uno anche a Roma, secondo. Quindi i tempi per la battaglia sono strettissimi. Oggi c'è una grande disinteresse. Vabbè, i temi da affrontare sono tanti, sicuramente le lotte su sul salario, sul lavoro, la nota, sulla devastazione ambientale, di cui la nota è un esempio importante, sugli inceneritori. È chiaro, le lotte sono tante, le energie sono poche, siamo pochi, malmessi, eccetera. Però ovviamente affrontare anche questo problema sta dentro una grande battaglia per non la chiamerei battaglia di civiltà, ma è una battaglia per non finire nella barbarie, perché oggi non è il problema che stiamo andando avanti verso un sole radioso, qui stiamo cercando di non finire nella barbarie più nera, e questo discorso dei manicomi criminali è paradigmatico, così come la lotta della no TAV è paradigmatica dell'arroganza, la protervia, la bruta violenza del potere che vuole imporre, nonostante senza vuole imporre le sue scelte di profitto senza nemmeno considerare, passando sopra i corpi, passando sopra le devastazioni ambientali, passando sopra le menti delle persone. Insomma, è veramente una volgarità e una barbarie che insomma dovremmo in qualche modo stoppare. Allora, 15:45, abbiamo sentito un poco fa da Valsusa in Nessuna Novità per ora, altrimenti avremmo dato la linea direttamente a loro. Allora, questa, arriviamo adesso, d'ora in poi seguiremo, diciamo, fare con In questa trasmissione un congruo spazio lasceremo alle lettere che provengono dal carcere, perché ci arrivano molte lettere dal carcere, in parte denunce, in parte racconti di vita, a cui vogliamo dare spazio, come abbiamo sempre fatto, però visto che in questo periodo stanno aumentando, quindi vi diamo. Intanto ci sono due denunce che arrivano direttamente da Rebibbia Femminile, quindi da un carcere che dove arriva questa voce, dove sappiamo che ci ascoltano. Allora, tutte e due sono delle denunce della realtà dell'infermeria. In coda a una lettera che parla di altre cose, leggiamo. L'altro giorno è successa, quindi l'altro giorno di qualche giorno fa, non tanto. L'altro giorno è successa una cosa bruttissima. Delle guardie hanno picchiato una ragazzina solo perché non si voleva spogliare, perché ha tentato il suicidio due volte. È una bambina, ha solo 21 anni, è uscita fuori di testa. Ora sta fissata e si vuole impiccare, e allora sta qui con un'infermiera sorvegliata a vista. Però la tengono senza lenzuola, senza cuscino, solo con una coperta. Dovreste vederla, che pena mi fa, è così carina. Quante cose ne ho visto in questo carcere. E quindi questa è una denuncia che viene da Rebibbia. Da cui, dalla cui infermeria abbiamo un'altra denuncia che avviene. Ciao carissimi compagni, questa scrive a tutta la redazione. Sono Cristina, detenuta attualmente dal 31 gennaio 12, quindi da un mese, al carcere di Rebibbia in infermeria. Vi scrivo soprattutto per i vari problemi che ci sono qui, tra persone che stanno male fisicamente. È un vero bordello, non c'è quasi mai acqua calda. I farmaci un giorno ci sono, il giorno dopo si vedrà, chissà. Il vitto è veramente incommentabile, cioè immangiabile. L'igiene sta a zero ed è l'infermeria, quindi la cosa abbastanza grave. E come di certo saprete, tutto ciò per certe malattie è fatale. Ma lo sanno tutti, lo sanno tutti che l'igiene nell'infermeria è decisivo. Comunque, ci trattano come bestie, prosegue questa denuncia. E questa non è una novità. Vi scrivo con fatica queste poche righe perché non sto per niente bene. E vi prego cercare di fare tutto ciò. Perché qui veramente la situazione è ai limiti della follia. Purtroppo, quando ci consentono lo stereo, scusate, mi è scritta a mano, quindi la lettura è un po' stentata la mia lettura, ma non me ne voglia chi ha scritto. Quando ci consentono lo stereo, non riusciamo mai a captarvi. E a me, che vi ascoltavo sempre, mi mancate una cifra. Evidentemente con lo stereo non riesce a prendere, forse non è una buona radio, non prende Radio Onda Rossa. Vabbè. Sono sicura che sapete bene com'è qui dentro, e lo sappiamo purtroppo malissimo, ma vi posso giurare che le cose peggiorano di giorno in giorno. Oltre a voi, con tutte le altre compagne, abbiamo anche scritto alla direzione. Assetto istituzionale, area di vabbè, a un'istituzione, insomma, no? Area salute mentale carcere dipendenti, che sono venute a farci visita, ma da ridere, praticamente hanno scritto a questa istituzione, che è l'area salute mentale carcere dipendenti. Diciamo dipendenze, insomma, sono venuto a farci visita, ci mette da ridere. Sicuramente non hanno né voluto vedere i problemi, men che meno risolverli. Sono certa che voi ne farete e la divulgherete questa denuncia. Sarò felice se vorrete rispondermi. Risponderemo così siete, continuate così, siete la mia gioia di vivere. E queste cose fanno veramente piacere. Un abbraccio a tutti, tutti, tutti, tutti, tutte, e così. Va bene, Cristina, chiaramente ti risponderemo. La denuncia l'abbiamo fatta, purtroppo per quanto riguarda, non abbiamo la possibilità di denunciare in televisione oppure nei giornali che hanno più lettori di noi questa denuncia, però la facciamo, vedremo di farla girare il più possibile dove arriviamo, vedremo anche di realizzare delle iniziative che possiamo fare noi, venire di nuovo sotto Rebibbia. Abbiamo già in mente, tra il tempo di organizzare ci vorrà qualche mese, però verremo con canti e suoni, tanto per dare voce a voi, e leggeremo queste lettere a tutta la città perché si sappia perlomeno quello abbiamo, non abbiamo televisioni, non abbiamo giornali, però abbiamo la possibilità di alzare e di portare in giro degli altoparlanti con delle casse e far sentire a chi vuol sentire, a chi ha orecchie per sentire, a chi non se le chiude perché si vergogna di se stesso o di se stessa, questa tua denuncia. Quindi in gamba, cercate di resistere. She takes the blame, it's always the same. She goes down on her knees.